Möbius. In viaggio nel mondo senza fine della scienza. Con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Questo è Möbius, come ogni sabato. Ciao Chiara. Evviva, ciao Federico, ben ritrovati a tutti. Cominceremo con le farfalle blu che non sono blu. Cosa c'entra la fisica con gli ecosistemi? Poi invece racconteremo il Nobel per la chimica a modo nostro, cioè facendolo raccontare a chi aveva previsto tutto. E poi, infine, vita da scorpione. Si va, partiamo. Via. In questo weekend si chiuderà il Festival della Scienza di Bergamo. Questa mattina, Chiara, c'è stata una conferenza. Sì, alle 9.30 al Teatro Donizetti c'era Cosa c'entra la fisica con gli ecosistemi. Noi ci siamo fatti raccontare, ovviamente, di che cosa si è parlato lì a Bergamo. Ci sono un sacco di curiosità, soprattutto legate agli animali, ai colori, agli insetti e agli ecosistemi in generale. E ne parla con noi Didrik Wiesmann. Buonasera, Wiesmann. Buonasera. Che era protagonista ovviamente che della era conferenza. Protagonista della conferenza. Wiesmann è presidente dell'Istituto Nazionale di Ricerca sulle Misure, docente di fisica all'Università di Firenze e poi responsabile dell'area fotonica dell'ENS, che è un laboratorio europeo che lavora sulla spettroscopia. Allora, noi sappiamo che nella sua conferenza lei ha incominciato a parlare di farfalle blu che non sono blu. Esatto, però li vedi come blu. Sì. Li vedi come blu. Noi pensiamo il blu come un pigmento, no? Vai in un negozio che compri un colore e blu è quello, sono pigmenti. Cioè, se io compro un vestito blu, è blu, insomma, è un pigmento blu. Tu pensi, ecco, che sia blu, che è sempre blu, ma la questione non è così semplice. La farfalla è molto più furba rispetto al colorificio dell'angolo della strada. Quello che fa la farfalla non usa proprio un pigmento, ma usa una struttura molto sofisticata, molto carina, che riflette il blu e fa passare il rosso. Scusa, riflette il blu, ma a seconda di una certa direzione? Esatto, dunque il blu va in una direzione, gli altri colori vanno in altre direzioni e alla fine non è un pigmento che assorbe qualcosa e di conseguenza vedi il resto. No, non assorbe niente, manda tutti i colori in direzioni diverse. E questo è un fenomeno fisico, perché ci spieghiamo il fatto per cui ce ne sta parlando lei, ma in realtà è dovuto a che cosa? A come sono fatte ad esempio le ali della farfalla? Le ali della farfalla hanno una struttura molto sofisticata per un animale così relativamente semplice. Poi si scopre che l'ala della farfalla è una cosa bellissima, molto complessa, che è in grado di mandare tutti i colori in angoli diversi, che anche per la farfalla è una cosa speciale, perché così, diciamo, è anche più bella. Ah, certo. E però serve anche, diciamo, per una questione di predazione e così via. Predazione anche di essere attraente, diciamo, certo. Un colore quando cambia, quando batte le ali, anche questo colore cambia. Ma è come se fosse costituita da tantissimi specchietti che riflettono la luce in maniera sempre diversa, con angolazioni diverse. In un certo senso sì, per chi si ricorda la copertina del disco di vinile di Pink Floyd con i prisma. Tutte le direzioni, e quello è l'effetto. E lì abbiamo un bel esempio dove l'animale dà un'ispirazione per i ricercatori, per noi, per trovare delle soluzioni innovative. Ah, okay. Beh, in effetti di superfici che riflettono, cioè, per esempio nei tessuti potrebbe essere interessante avere un golfino che poi dopo, quando ti giri, diventa tra rosso. Tra il catarifrangente. Già... non ci siete ancora arrivati ad avere, per esempio, dei tessuti con questa così sofisticati, polivalenza. Forse. Sì, forse possiamo diventare così attraenti come una farfalla, ecco. Oppure anche un'automobile che ha un colore diverso. Come vedi. Quello standard, a seconda di come. Sicuramente non costeranno poco, dunque non puoi dipingere tutto l'edificio, però nel settore dove le superfici forse sono piccole e i costi possono essere un po' più elevati, queste cose possono funzionare. E comunque è interessante per noi vedere che un animale, appunto una farfalla, ha trovato una cosa così particolare e sofisticata per dare un colore, per creare un colore. Per avere mille colori. Sappiamo che ha fatto vedere durante la conferenza, sempre parlando di colori e fenomeni fisici, uno scarafaggio bianco. Che ci deve dire da dove viene, però, perché noi non siamo abituati a vederli bianchi. Sì, ecco, lo scarafaggio bianco, noi non siamo abituati, ma in altri paesi esistono scarafaggi bianchi perché probabilmente sono in un ambiente, ora non sono biologo, ma sono in un ambiente dove è favorevole, diciamo, si nascondono meglio quando sono bianchi. Ma uno scarafaggio, essere bianco, sembra una cosa banale, però in qualche maniera lo scarafaggio è un animale piccolo, relativamente semplice, e deve sulla superficie deve creare una roba leggera che gli fa uno strato bianco. Non può andare in un colorificio o comprare un... No, certo. Dipingersi, no. Cioè, ma sì. Questo vuol dire che riflette tutti i colori in questo caso, e li riflette molto bene. Sì, diciamo, forse ancora detto meglio, si diffonde perché è una cosa diffusa, luce diffusa, non è proprio uno specchietto, ma più come carta, riesce a fare una roba molto bianca, se vuoi. Nella pubblicità del sapone si dice questo lava più bianco del bianco, ecco. Qui diciamo... Forse è proprio quel colore lì. è più bianco come il bianco della carta, è fare una carta relativamente sottile, che però non diventa trasparente, rimane molto, molto opaco. E che particolarità? Lì lo scarafaggio, forse un animale, non so, forse ancora più semplice della farfalla, comunque non di sicuro un animale molto complesso, però... ci ha sorpreso perché siamo andati a indagare come mai è così bianco, no? E abbiamo scoperto che c'è di nuovo una struttura molto, molto sofisticata che è più performante rispetto a quello che i ricercatori riescono a fare in laboratorio. È due volte più bravo lo scarafaggio rispetto ai professori più bravi in questo settore. Ecco, anche come lei allora. Ecco, ma allora che cosa state facendo? State cercando di imitare il bianco dello scarafaggio per avere appunto questa performance che è addirittura il doppio di quello che si riesce a fare nel migliore dei casi. Ci dà un'ispirazione, anche lì abbiamo un altro esempio dove la natura si insegna delle cose molto belle. La struttura, la soluzione che ha trovato lo scarafaggio la stiamo imitando adesso per creare nel laboratorio dei materiali molto diffondenti, che per noi è importante, utilizzando come fonte di ispirazione quella struttura. E lo scarafaggio stesso però cosa se ne fa di questo esoscheletro così ultra bianco? E lo scarafaggio, ora non sono biologo, ma lo scarafaggio si trova in un ambiente dove è favorevole essere bianco, probabilmente mi immagino che si nasconda, forse fra le muffe o qualcosa del genere, e lo deve fare con il meno peso possibile, con il meno materiale possibile. E lì è stato così particolare che è riuscito a farlo, grazie a milioni di anni di evoluzione naturale, ha trovato questa soluzione che con pochissimo materiale comunque riesce a essere bianco, riesce a diffondere la luce. Va bene, grazie. Ma grazie, buon lavoro, buona ricerca. Grazie, buona serata. Le automobili invece vanno in una direzione precisa, ma cosa stanno combinando? Sentiamo. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Quando si dice accidenti, che coincidenza. Ah sì sì, proprio devo dire è stata una fortuna, anche se vogliamo, per Piersando Pallavicini, che è qui con noi questa sera. Benvenuto. Grazie, buonasera, grazie dell'ospitalità. Benvenuto. Allora adesso la introduciamo, lei è docente di chimica inorganica all'Università di Pavia e ha scritto questo libro, La chimica della bellezza, edito da Feltrinelli, che è uscito... Allora, adesso lo possiamo dire, 20 giorni all'incirca prima dell'annuncio del Nobel per la chimica, e lei, senza spoilerare il suo libro, però dobbiamo un pochino farlo, praticamente racconta quello che è successo 20 giorni dopo. Lei in qualche modo si era immaginato tutto. Beh sì, è stata una coincidenza veramente tremenda, e quando, cioè, tremenda in senso positivo naturalmente, quando ho sentito l'annuncio dei premi Nobel reali sono più che trasalito, insomma, ho avuto un moto di sorpresa ma anche di euforia. Perché? Insomma, perché in questo libro io racconto in modo immaginario, vicino del tutto immaginario appunto di fantasia, la premiazione con un Nobel per un tipo di chimica invece realmente esistita, che è, diciamo così, la seconda generazione della chimica supramolecolare, che aveva già avuto un Nobel nel 1987 con Jean-Marie Len, e questa seconda generazione, che è una generazione in cui ho lavorato a lungo anch'io, facendo ricerca e conoscendo peraltro i premi Nobel che sono stati premiati pochi giorni fa, conoscendoli di persona, frequentandoli, insomma, in questa seconda generazione si è fatta una chimica che dominava, diciamo così, la materia a livello proprio atomico, costruendo delle macchine fatte di pezzi di molecole, componenti fatti da piccole molecole, dove questi componenti si muovono a livello atomico, su scala atomica, con movimenti che mimano quelli delle macchine del mondo reale. E il fine ultimo, quando noi si faceva questo lavoro, quando chi ha vinto il Nobel faceva questo lavoro della ricerca, il fine ultimo era creare qualcosa che avesse una bellezza intellettuale senza preoccuparsi troppo delle applicazioni immediate. Ecco, questo tipo di chimica, con mio grande rammarico, era un po' sparito dalle scene negli ultimi 10 anni, sostituito da altra scienza chimica più di moda, diciamo così. Più legata magari ai materiali e alle applicazioni. Per esempio, ecco, materiali, la nanochimica, esattamente quello. E quindi diciamo che nel romanzo cercavo nel mio cuore di mettere un po' a posto le cose, di dire riconosciamo a questa scienza così bella nella mia fantasia un riconoscimento che è il premio Nobel. La rimessa sul palcoscenico. Nella sua fantasia, che però insomma forse è una fantasia anche di qualcun l'hanno altro ascoltato. Nella commissione. Condivido dal comitato, evidentemente. L'altra cosa che in effetti è sorprendente ed è una coincidenza, ma forse appunto la sua esperienza spiega ovviamente un pochino di più, ha avuto peso, è che lei racconta di un personaggio francese che in qualche modo si rifà al vincitore del Nobel vero, il vincitore francese Sauvage, che lei in realtà ha conosciuto. Beh, assolutamente vero, perché intanto Sauvage, se posso dire, è stato il vero ideatore di questa chimica, della chimica delle macchine molecolari, è stato il primo a pubblicare quello che forse ha avuto le idee più fantasiose e brillanti, anche se poi soprattutto Stoddard gli è andato a pari quanto bellezza e fantasia. Beh, insomma, Sauvage è uno scienziato che ho avuto modo di conoscere, è stato a Pavia a fare un corso come insegnante a contratto, sono stato io da lui a fare invece dei seminari come professore invitato a Strasburgo, che poi sono io per caso lo conosco anche fuori dalla chimica, perché viene in vacanza in Italia nello stesso posto dove vado. Ecco. Quindi si è ispirato anche dal punto di vista caratteriale. Esatto. Beh, insomma, questo personaggio nel romanzo, che è Guillaume Chaleur, fa la stessa chimica di Sauvage, questo lo riconosco ovviamente, il debito è ben esplicito e riconosciuto a mille note al romanzo, ma devo dire che siccome è una persona che amo molto, Jean-Pierre Sauvage, ho dato a questo personaggio anche alcune delle sue numerose caratteristiche positive, che sono il grandissimo fascino, l'umiltà della tipica dei grandi scienziati, il saper trattare come amici tutti quelli che gli stanno vicino, no? Questa positività che irradia Chaleur e che irradia anche il Sauvage. E a questo punto però ci vuole una traduzione francese del suo romanzo, perché lui dovrà leggerlo. Vabbè che forse parlano, legge l'italiano. Beh, ha una moglie italiana. Ah, vabbè. Vabbè, però allora giochiamo in casa. Ecco. Ma lei l'ha già avvisato? Io ho scritto un'email, però gliel'ho scritta il giorno dopo il Nobel. Suppongo che ne abbia ricevute almeno mille. Allora, abbiamo proprio pochissimi minuti. Magari vogliamo spendere qualche parola su questa disciplina, sì, che lei descrive così bene nel suo libro, e ovviamente chi si è incuriosito potrà comprarlo, La chimica della bellezza. Però qualche parola in più su queste molecole, micromolecole, macchine molecolari che se stimolate si interagiscono. Sì, certo. Allora, come dicevo, sono le macchine più piccole possibili, perché sono costruite dal basso, e cioè dall'autoassemblaggio di queste strutture dagli atomi o da altre molecole più piccole. Quindi intanto hanno un grossissimo vantaggio, cioè non dobbiamo usare una tecnica di miniaturizzazione che sarebbe molto complicata su quella scala, ma sono già così da sole. Ecco, grazie alle caratteristiche che gli impartiamo mentre ne sintetizziamo i pezzi. E poi queste macchine possono fare delle cose, come per esempio appunto muovere una parte della molecola su una scala che è quella atomica, quindi in distanze inferiori al nanometro. Allora, tutto questo è molto affascinante, ma in realtà anche delle possibili applicazioni pratiche, che forse sono quelle che fanno più impressione a chi non è del settore, a chi non è un chimico, e cioè per esempio si possono pensare di usare queste macchine al posto dei transistor, e sarebbero i transistor più piccoli possibili, perché fatti appunto di una manciata di atomi, e questo porterebbe a dei computer iperveloci. si possono usare per trasportare e dispensare farmaci nell'organismo a comando, no? Se immaginiamo una sorta di scatola molecolare che contiene un farmaco, possiamo mandarla nel posto giusto con un input, con uno stimolo, farla aprire solo quando arriva, per esempio, sul tessuto tumorale o nel tessuto dove c'è un'infiammazione. Quindi grandi cose. Grandi cose possibili. Ecco, questo va detto, cioè che le applicazioni sono per il momento rimaste a livello accademico, cioè funzionano nei laboratori, e solo in alcuni casi c'è stato un transfer, diciamo, per esempio a livello clinico. Esistono adesso delle nanoparticelle ingegnerizzate con macchine molecolari che fanno proprio quello che dicevo prima, e cioè liberano il contenuto delle nanoparticelle grazie a una sorta di tappo molecolare che si apre a comando per un input esterno. Va bene, allora Pier Sandro Pallavicini, grazie per questo racconto e complimenti, insomma, per il fiuto del suo libro La chimica della bellezza. Di nuovo grazie a voi e buonasera agli ascoltatori. Arrivederci. Nella penultima puntata di Mebius vi abbiamo parlato di una manifestazione bella che si è tenuta a Torino di Stinti Animali, dedicata agli animali e al nostro rapporto con loro. Bene, durante questa manifestazione Neri Marco Re ha tenuto un reading, insomma, di storie che riguardano gli scorpioni. È un testo scritto da Ernesto Franco che lui ha recitato e possiamo ascoltarlo. C'è una prima parte dedicata a una leggenda e un'altra che riguarda i rapporti amorosi. Sentiamo. So benissimo che su di noi insiste una leggenda millenaria che nessuno è riuscito mai a sfatare. Secondo tale leggenda, noi scorpioni siamo una specie di suicidi. Anche se so che è inutile, voglio ripeterlo anch'io. La leggenda non dice la verità. O almeno non la dice bene. La verità è un'altra. Noi dobbiamo fuggire come il male assoluto i raggi ultravioletti, perché ci riducono nello stato in cui mi trovo io al presente. Questo sì. Non si tratta di una nostra scelta o di una nostra bizzarria. Dobbiamo farlo, pena la vita. Ecco perché ci fanno orrore il sole e il fuoco. Il sole è un astro lontano, possiamo tollerarlo almeno un po', ma se veniamo circondati dal fuoco, da molto vicino, allora perdiamo il controllo e qualcosa ci spinge ad attaccare con sempre maggior furia. E più aumenta la furia, più perdiamo in efficacia e precisione. Come qualsiasi altro essere vivente che si senta minacciato, il nostro metasoma può diventare presto incontrollabile. Scagliamo la culia contro ogni cosa, ma soprattutto contro la maledetta luce incandescente che ci attacca. In questi casi non è stato raro che, al culmine dell'esasperazione e della confusione, qualcuno di noi abbia colpito se stesso, piantandosi la culea in mezzo agli occhi, e abbia deciso solo allora, disperato, di svuotarsi dentro tutto il veleno del telso. Come capita a molti, non siamo immuni a noi stessi, questo sì, ma lo ripeto, non è suicidio, al contrario, è voglia di combattere fino all'ultimo. Quando individuiamo un nostro simile, cerchiamo di non perdere il contatto e proviamo ad avvicinarci di più, fino a quando i nostri pettini non riescono a decifrarne la specie. Ne abbiamo più di 1750 e si capisce come questo porti via una certa quantità di tempo. E poi il sesso, che è poi la cosa più rapida. Se io, per esempio, sono un maschio, inizio allora a stringere con i miei piedipalpi quelli di lei. Così, piedipalpo con piedipalpo. Ben inteso. Lo faccio con molta prudenza, fingendo una timidezza e una noncuranza che non possono essere nella mia natura, simulando rossori impossibili che, se fossero veri, potrebbero essermi fatali. Ma lo faccio comunque e la conduco con un certo ritmo. E ogni tanto fingo di lasciarla, poi ritorno, la tocco appena, la sfioro, la riprendo. Un pedipalpo prima, tutti e due i pedipalpi poi, con grazia, con la leggerezza che posso, con ordine, armonia e soprattutto senza mai tradire l'aggressività che mi urge come un vento vuoto nel vuoto che ho dentro. Tutto questo per intrattenerla mentre sotto i pettini del mio cefalo torace auscultano freneticamente il terreno per trovare il luogo adatto dove posare lo spermatoforo, la ghiandola con dentro gli spermatozoi. È una fatica al limite delle mie possibilità, non sempre destinata al successo. Devo dividere la mia attenzione su due fronti, quello di lei immediatamente vicino, troppo vicino, è quello dell'ambiente intorno. Devo essere contemporaneamente concentrato sui pedipalpi, non mollarla mai, non farglielo neanche sospettare, e sul terreno anche lontano. Il posto non deve essere troppo sabbioso, non deve essere umido, non deve assolutamente essere troppo secco, non può essere molle, non deve essere troppo sporco, deve avere una discreta vista, deve essere ventilato ma non ventoso, deve, per qualche misterioso non so che, andarle bene. A volte lo trovi subito, nel giro di qualche minuto, a volte ci vogliono ore e ore. Ce ne ho messe anche 25. In questi casi, come è comprensibile, lei, non dico che si irriti, noi non abbiamo l'irritazione, ma che perda interesse, questo sì. E allora, se non la si lascia andare subito, può diventare pericolosa. Oppure bisogna colpirla con la culeo sui pedipalpi o all'inizio del cefalo torace e calibrare una piccola iniezione di veleno. Dico calibrare, questo sì, perché è un fatto, questo, che ci rende unici. Misurare la quantità di veleno che decidiamo di iniettare con il nostro aculeo è la sola cosa che possiamo fare a nostro piacere. Lo decidiamo noi. Dopo la pungitura, lei si calma e noi abbiamo ancora qualche minuto. Quando finalmente, allo stremo delle forze, trovo il terreno adatto, rilascio lo spermatoforo con tutti gli spermatozoi. Lei non lo può sentire perché lo spermatoforo non produce alcuna vibrazione e allora io ce la conduco sopra, sempre leggero, sempre elegante, stringendola delicatissimamente per i pedipalpi. Poi la lascio, la sento che si sistema, so che sta per aprirsi e prendere lo spermatoforo dentro di sé. Io fuggo perché in lei si sta generando uno smisurato desiderio di cibo e non sarebbe la prima volta che uno, dopo tale immensa fatica, indebolito e intenerito, viene divorato. Lei darà alle tenebre una trentina di piccoli, ma ci può mettere molto, anche un anno e mezzo. Siamo lenti. Siamo in chiusura, la mail. Ah, ricordiamo i contatti. Allora, per scriverci qualsiasi cosa, qualsiasi domanda e qualsiasi suggestione, moebius@radio24.it. E poi sul sito di Radio 24 ovviamente trovate il nostro blog. Buona settimana a tutti. E a tutte, ciao. Ciao.